E sicuramente la pandemia ha segnato veramente tutti, a maggior ragione voglio dire chi è veramente in prima linea, quindi a contatto con quelle che sono gli operatori, quindi i pazienti e quindi gli operatori sanitari. È normale che in questo momento stanno vivendo veramente uno stress importante, e uno stress importante è dovuto da varie preoccupazioni, no? Vedere questa situazione, queste persone che effettivamente si aggrappano a quelle che vedono, che si confrontano, quindi l'infermiere, il medico, le prime persone che vedono, ma lo stress è dovuto anche a quella che è poi la responsabilità che ogni operatore ha, i familiari, tutto il contorno che c'è attorno. Diciamo che questa è una situazione forte e gli operatori ci chiedono appunto forti segnali, insomma, di stress da questo punto di vista, anche per quello che riguarda l'aspetto psicologico, che secondo noi è molto importante, perché quando un operatore riesce a gestire nelle migliori delle condizioni quello che è lo stress, riesce anche a dare molto molto di più. E quindi abbiamo pensato che in questo momento sia importante che un ospedale come il Policlinico Santo Stefano prenda a carico questo diciamo richiesto d'aiuto da parte degli operatori, metta in atto quella che può essere una valutazione, oltretutto prevista dalla legge, dall'accordo quadro europeo sullo stress correlato, e quindi va a vedere effettivamente quanto stia incidendo su quelli che sono i suoi operatori, i suoi collaboratori, per cercare di mettere in atto tutte le azioni migliorative che possono effettivamente aiutare il personale e di conseguenza anche il paziente. E come ritenete quindi che possa influire lo stress lavoro correlato sia nella vita privata degli infermieri che nella loro professione? Cioè, ci potrebbe essere un calo di rendimento, un calo generale? Beh, sicuramente una persona stressata, una persona che rende meno, una persona che è meno concentrata, una persona che ha più paura e che insomma, voglio dire, può sicuramente portare a, diciamo, non essere serena, avere quella lucidità e quella serenità che in un'altra situazione questi professionisti potrebbero avere. Ecco, noi vorremmo capire fino a che punto questo stress sia arrivato all'interno delle nostre strutture, cerchiamo di capire veramente quante persone sono, diciamo così, sentono pesantemente questa situazione e quante invece riescono a gestirla. Questo penso che questa indagine sia d'aiuto anche al policlinico, perché in questo caso riesce anche a comprendere i suoi collaboratori, i suoi professionisti, appunto come stanno gestendo questa pandemia da un punto di vista psicologico ed emotivo. Perché, come dico sempre, questa è una pandemia che non è solo un'emergenza sanitaria, ma sta prendendo anche quello che sono anche i rapporti sociali, economici e sociali delle persone. Quindi penso che mai come adesso sia importante veramente correlare lo stress, fare una valutazione di quello che è lo stress lavorativo e cercare di mettere delle azioni di miglioramento. E quindi nel caso in cui dovessero emergere dati allarmanti, come dovrebbe reagire secondo voi la struttura ospedaliera? Che misure dovrebbe adottare? Ma sicuramente cercando di valutare questi dati, se dovessero venire fuori dei dati allarmanti, cercare di capire quali possono essere le azioni da mettere in atto. E una cosa importante, come sempre abbiamo detto noi del nursing, gli infermieri, cioè la dotazione organica deve essere sufficiente, perché una persona è molto importante questa dotazione organica, cioè ripeto, per il paziente ma anche per gli operatori, perché avere anche un ricambio, permettere a una persona di fare un riposo, non sottoporla a un doppio turno di una situazione già stressata, è una cosa molto importante. E infatti, a proposito della prima ondata in cui gli infermieri denunciavano turni massacranti e mancanza di personale, è cambiato qualcosa oppure è sempre uguale? Purtroppo, come abbiamo denunciato noi del nursing, ci siamo ritrovati in una situazione che ci aspettavamo un'organizzazione migliore, cioè nel senso che dopo 6 mesi di pausa ci aspettavamo dei piani dove la dotazione organica fosse insomma più rafforzata. Questo purtroppo, almeno in una prima fase, noi non l'abbiamo visto. Sicuramente adesso qualche azione di miglioramento delle assunzioni le stanno facendo, ma ci siamo dovuti ritrovare sempre nell'emergenza per poi correre ai ripari. Ecco, ci saremmo aspettati un piano dove appunto la dotazione organica fosse alta, sufficienti posti letto aumentati, proprio in virtù di affrontare quella che tutti dicevano la seconda ondata, e speriamo che non ce ne sia anche una terza. Per noi è molto importante. Lei deve pensare che un'infermiera terapia intensiva, che è costretta ad usare, tutti sono costretti, ma loro a maggior ragione, dei presidi molto alti, no, per la protezione individuale, quindi le tute, i caschi, insomma le maschere, mascherine. Queste persone qui fanno fatica anche se non hanno il cambio ad andare al bagno, quindi a soddisfare un bisogno fisiologico, perché loro hanno bisogno prima tutto un percorso per vestirsi, poi per svestirsi. Quindi sarebbe necessario che soprattutto questi operatori avessero un cambio dopo anche 3 ore, per dare anche 10 minuti di pausa, un quarto d'ora, e poi riprendere di nuovo. Purtroppo non abbiamo le dotazioni, molto spesso ci ritroviamo in situazioni dove queste persone fanno anche 8-9 ore. Cioè, lei si immagini, non ha tutto il casco, tutta bardata, le mascherine, per 8-9 ore, insomma, diventa un po' stressante a lungo andare, perché un giorno si fa, 2 giorni si fa, ma se questa è una conseguenza che poi va tirata avanti per mesi, diventa poi insomma molto molto pesante, ripeto. Per cui la nostra preoccupazione è di stimolare le aziende affinché mettano in atto tutto quello che è possibile. Pensiamo che la valutazione, ripeto, dello stress correlato può essere uno strumento utile anche a loro per valutare appunto dove stanno andando, se le azioni che hanno messo in atto siano poi giuste oppure c'è da ricorrere ai ripari.